La santità dei santi padri era un prodotto sì cangiante che io decisi di allontanare ogni dubbio dalla mia testa purtroppo troppo chiara e prendere il salto per un addio più difficile. E fu allora che la santa sede si prese la briga di saltare i fossi, non so come, ma ne rimasi allucinata. E fu allora che le misere salme dei nostri morti rimarono per l'intero in un echeggiare violento. Oh, io canto per le strade, ma solo il Santo Padre sa dove tutto ciò va a finire. E tu le tue sante brighe porterai ginocchioni a quel tuo confessore ed egli ti darà quella benedetta benedizione che io vorrei fosse fatta di pane e olio. Io dunque, come dicevamo, io ero stesa sull'erba putrida e le canzoni d'amore sorvolavano sulla mia testa ammalata d'amore e io biascicavo tempeste e preghiere e tutti i lumi del Santo Padre erano accesi. La Santa Sede infatti biascicava canzoni puerili anche lei e tutte le automobili dei più ricchi artisti erano accolte tra le sue mura. Oh disdegno, nemmeno la cauta indagine fa sì che noi possiamo nascondere i nostri più terrei difetti, come per esempio il farneticare in malandati versi o lagrimare sulle mura storte delle nostre ambizioni colori odorosi di cera stagliati nella odorante stalla dei buongustai. Ma nessun odio ho in preparazione nella mia cucina, solo la stancata bestia nascosta. E se il mare che fu quella lontana bestia nascosta mi dicesse cos'è che fa quel gran ansare, gli risponderei: ma lasciami tranquilla, non ne posso più della tua lungaggine. Ma lui sa meglio di me quali sono le virtù dell'uomo. Io gli dico che più felice la tarantola nel suo privato giardino. Lui risponde: ma tu non sai prendere le redini, si staccano se non mi attengo al potere della razionalità. Lo so, tu lo sai, lo sanno alcuni, ma ugualmente la cara tenda degli scontenti a volte perfora anche i miei sogni. E tu lo sai e io lo so, ma l'avanguardia ancora a cavalcioni su delle mie spalle ride e sputa come una vecchia fattucchiera. E nemmeno io so dove è che debbo prendere il tram per arricchire i tuoi sogni e le mie stelle. Ma tu vedi allora che ho perso anche io le leggiadre risplendenti capacità di chissà fregarsene. Debbo mangiare, tu devi correre, io debbo alzar, tu devi correre con la coda a penzoloni, io mi alzo, tu ti stiri le braccia in un lungo penibile addio col sorriso stretto e duro sulla tua bocca non troppo ammirabile. E cos'è quel lume della verità se tu ironizzi null'altro che la povera pegna tu avesti dal mio cuore lacerato? Io non saprò mai guardarti in faccia quel che desideravo dire se n'è andato per la finestra. Quel che tu eri era un altro battaglione che io non so più guerrare. Dunque quale nuova libertà cerchi fra stancate parole? Non la suave tenerezza di chi sta a casa ben ragguagliato dalle alte mura e pensa a sé? Non la stancata oblivione del gigante che sa di non poter rimare che entro il cerchio chiuso dei suoi desolati conoscenti? La luce è un premio di Dio ed egli preferì vendersela che vedersela sporcata dalle tue oblivionate mani. Non so cosa dico, tu non sai cosa cerchi, io Non so cercarti nel mezzo di una luce che è chiara e di un'altra che è la cattiveria in persona. Cerco il ritornello nel mezzo d'un gracile cammino fatto di piccole erbe trastullate e perse nella sporca terra. Io cerco e tu ti muori presso un albero infruttuoso, sterile come la tua mano. Vita breve, tu ti sei sdraiata presso di me che ero ragazzina e ti sei posta ad ascoltare su la mia spalla e non chiami per le rime. Io allungo le gambe, vendo i parafanghi con un color prezioso. Tu ti stilli contento in un luccichio di cattive abitudini. Io mordo la mela per sostenere queste mie deboli vene al collo che scoppia di pena e la macchina urla più forte della mia sensata voce. Io non so cosa voglio, tu non sai chi sei e siamo quasi pari, ma che ricerco io se la canzone della debole pietà non è altro che questa mia inventata invettiva che non so oppugnare in nessun altro partito che il tuo, il mio, le nostre interne lanterne, nessun forte lume della verità e il mondo che aspetta coi suoi occhi luminosi e forse pieni di sabbia. La sapiente virgoletta sarà il nostro gioco di destino, chi io lo voglia o no, lascia il caso e la nostra natura imberbe. Tu sarai il mio re debolissimo, io sarò la tua regina non tanto vorace che non possa scappare quando se la sente in un giro di chiave, in un bagliore di umori neri. Ma il mondo è senza chiave, per non dire senza l'organizzazione necessaria ad una pietà necessaria come la Tour Eiffel, che non resta in piedi se non fosse per la sua permessa bruttezza. Tu cercherai di sorvegliare questo mio pozzo che è più profondo del tuo, ma la acqua vi è divenuta troppo limacciosa e io non voglio sospirare per la senilità di lingue toscane. Dunque stirati nei tuoi ben rivestiti stivaloni ricoperti di peli dei più scelti animali e senti il mio cuore di gomma ma anche di sabbia scottante battere se ancora batte per un uomo. Io me ne lavo le mani e rimo anticamente con una modernità che non sospettavo nei miei imbrogli, ma non voglio rovinare i miei occhi per nessuno. Io nella loro ossa siepe, vuoi che usciamo, vuoi che balocchiamo, vuoi che io faccia da grande sorella a tutte quelle infelici, vuoi che io mi chiarisca la gola tra queste quattro pittoresche mura, fra la bottiglia di un latte divenuto rancido ed una vanità ben stufa di sgranare le lucide sue perle di sorrisi ancora non distribuiti. E l'estetica non sarà più la nostra gioia, noi irremo verso i venti con la coda tra le gambe in un largo esperimento.